Beh, allora, innanzitutto questa domanda può essere molto politica, perché a livello interno scolastico, nei corpo docenti, eccetera, non abbiamo particolari problemi, come non ce li aveva Magnani, come non ce li hanno le scuole che occuperanno fra poco. Questa è un'occupazione che è cittadina, soprattutto perché le vertenze, come ho detto, sono molto politiche. Innanzitutto c'è stato il decreto scuole sicure, che è simbolo di quella mentalità di questo governo, di quella paternalista, che ci vuole far credere che la droga nelle scuole si combatta mandando i cani dentro, mentre la droga appunto si combatte facendo il suo sociale, creando un mondo in cui nessuno sente il bisogno di farsi vedere. Ecco. Allo stesso tempo non ci sentiamo rappresentati da nessuna forza d'opposizione, perché come sentirsi rappresentati da una forza d'opposizione che fino a ieri ti ha fatto passare la buona scuola, che ci sfrutta in scuola lavoro e che ci rende, cioè, ha reso la scuola un parco giochi dell'azienda. E quindi abbiamo deciso appunto di creare questa piattaforma politica, di cui adesso stiamo scrivendo il manifesto per la scuola insieme, e di occupare in un piano cittadino che non sia solo nostro. Ok, quindi l'occupazione del Virgilio è iniziata ieri sera o sbaglio? È iniziata ieri sera, in realtà doveva iniziare oggi, ma ci sono stati un paio di problemi tecnici, quindi abbiamo, come dire, improvvisato. Beh, insomma, ci piace questa improvvisazione che porta alle occupazioni delle scuole, quindi grandi. E per oggi, insomma, se ci sono già qualche programma, qualche iniziativa. Certo. Nonostante l'improvvisazione siamo già riusciti a organizzare parecchia roba. Infatti oggi alle 3:30 verranno due ragazzi della campagna Bassa Alternanza a spiegarci. E che cazzo c'è? Ok, fai che c'è un attimo. Ok. È suonato l'allarme per qualche motivo, però possiamo anche ignorarlo, suppongo. Ok. Stavamo dicendo. Ah sì, allora, abbiamo già un corso, verranno dei ragazzi della campagna Bassa Alternanza a parlarci della riforma della buona scuola e tutto quello che ha comportato e che continuerà a comportare per noi studenti. Poi domani, in questi giorni, verranno a parlare anche Luciano Vasapollo della Sapienza, dell'economia, e ci spiegherà un po' tutte le dinamiche dell'Unione Europea e del neoliberismo. Insomma, abbiamo un programma bello pieno, la guerra antifascista del Donbass, militantato degli assalti frontali. Sicuramente non ci annoieremo, ecco. Perfetto, allora, insomma, qualsiasi cosa, insomma, se volete, sentiamo dei rumori, insomma, particolari, comunque se volete dare... Sto facendo un'intervista a Amber Rossa. Ok, se volete dare voce, insomma, a qualcos'altro nelle prossime ore, nelle prossime giornate, il numero è 06 49 17 50, chiamateci quando volete, insomma, e daje forte per l'occupazione. Fantastico, allora ci sentiamo, daje forte. Ciao. Avanti, ciao. Ciao.